metto un disco. Ritornano gli zombie quando io li seppellisco. Lo faccio per me, è tutto ciò che voglio. Raccolgo i miei pensieri d'ora e ieri sopra un foglio. Un po' di solitudine, ne ho bisogno. O sono sveglio, sto facendo un brutto sogno. Non c'è voglia, solo noia, non c'è cuore. Non c'è cosa che io faccia che supporti il buon umore. Per le cose che c'è intorno non mi accorgo se c'è amore. Se mi guardo bene dentro vedo ancora del calore. Do un'occhiata alla finestra con lo sguardo smarrito. Col respiro mi si appanna ed io la rigo col dito. La giornata fa schifo, loop in play all'infinito. Ma soltanto per stavolta mi dichiaro fallito. Non mi serve niente, solo un po' d'inchiostro. Sai, non c'entrano i problemi, vado dritto, me li fotti guai. Sto tranquillo, non c'ho neanche un modo di rimorso. Ricarico il mio vuoto e sarò pronto a farmi sotto. Senza patente né documenti. Nel veicolo coi miei pensieri stronzi, stesi sull'orizzonte del finestrino. Il tac dell'accendino, morbosa compagnia. Segue me verso un'altra via. Altra gente, altre storie di periferia. Col fiuto per ste strade, stretto nell'occhio il marciapiede. Come il rosario nelle mani di un prete. Il grigio dei palazzi che tumulta, mentre tutto tace ma non so a quartieri che ti. Per ogni movimento c'è un altro che non vedi. Appizzato come noi eti, non voglio e non me vedi. Starò nella mia giornata. No, e guardandomi allo specchio mi chiedo per quanto tempo ancora ci sto. Aggrappato all'estringo la faccia sul suo seno, ma molto spesso abbraccio il vuoto perché qua non c'è nessuno. E come sto non lo sanno, con la testa che pesa come il cash nel grammo. Mi lecco le ferite di un altro mio sbaglio. Oggi non me va mentre gli altri vanno. Mentre gli altri vanno. Accetto. Sangue misto ad alcol con il viso dentro al cesso. Sono schiavo del progresso ed è per allentare la tensione che ammalieno così spesso. Vorrei arginare il flusso dei pensieri ma mi succede come ieri, l'altro ieri e il giorno prima ancora. Dentro queste quattro mura in preda all'ansia. È una tortura senza fine, ne ho abbastanza. Ma il rimedio per evadere da questa stanza non mi pare che ci sia perché ho finito la sostanza. Quando guardo l'ora penso che troppo il tempo che sto sotto le lenzuola. Le lenzuola nella mente di un depresso basta poco perché sia realtà il pensiero di un insano gesto. L'ama corre nelle vene, lo sto accendendo meno ma finalmente ora sto bene. Sangue come inchiostro sul mio indice, scrive sul diario The End, fine del calvario.